Letture di Radio 24. A fine 2011 il Consiglio dei Ministri aveva approvato lo svuota carceri, un pacchetto di provvedimenti urgenti che avrebbero dovuto porre rimedio al sovraffollamento carcerario italiano. A maggio i primi risultati. Nel primo trimestre del 2012, dichiarava il ministro alla giustizia Paola Severino, sono stati registrati circa 3.000 detenuti in meno rispetto allo stesso trimestre del 2011. Ora il ministro esorta anche il Parlamento a ricercare ulteriori soluzioni al carcere tradizionale, con l'obiettivo di un miglior recupero dei detenuti e di un minor affollamento nelle case circondariali. «C'è molta più fantasia nel crimine che nella pena», scrive Sandro Bonvissuto nel suo bellissimo Dentro, da qualche giorno in libreria. In carcere è come se dessero la stessa medicina a tutti i malati, anche se affetti da malattie diverse, la stessa cura per tutti. Osserva nel raccontare l'inutilità di una pena uguale per tutti, deboli, forti, molto forti, che non rieduca, se non chi è già educato, e che semmai fa assomigliare ogni detenuto al suo reato. Ministro, l'ha letto? Non ancora, ma me lo hanno appena regalato e lo leggerò certamente, risponde Paola Severino, reduce da un lungo giro nelle carceri e da ieri in partenza per la Russia. Non l'ha letto ancora, ma sottoscrive in pieno quelle parole, lei che al Parlamento ha chiesto proprio uno sforzo di fantasia, finora senza risposta. Tant'è che giovedì scorso ha sollecitato la Commissione Giustizia della Camera ad accelerare l'iter del DDL del Governo su depenalizzazione, messa alla prova, ricorso a misure alternative al carcere vecchie e nuove. Quel DDL si sforza di portare un pizzico di fantasia nel catalogo delle pene, dice con rammarico visto l'esito. Ma politica e fantasia spesso non si conciliano se in ballo c'è un tema impopolare come il carcere. A maggior ragione in campagna elettorale. Certo, però penso che se in campagna elettorale l'atmosfera non si surriscalderà, ci sarà modo di spiegare ai cittadini che quelle misure abbattono enormemente la recidiva. Tutte le statistiche ci dicono che se i detenuti lavorano c'è un calo di 2/3 della recidiva e che chi usufruisce delle misure alternative torna molto meno a delinquere. Le misure all'esame del Parlamento, quindi, aumentano la sicurezza collettiva. Il 22 luglio c'erano 66.528 detenuti, meno dell'anno scorso, ma 18.000 in più dei posti regolamentari. E dall'inizio dell'anno già si contano 28 suicidi. La Severino chiede uno sforzo di fantasia anche all'amministrazione penitenziaria. Giovanni Tamburrino e Luigi Pagano, capo e vicecapo del DAP, lo stanno facendo, attingendo peraltro alla fantasia delle riforme del 75 e del 2000, in cui già c'era la consapevolezza che ai detenuti non va data la stessa medicina, ma bisogna diversificare, tenendo conto dei reati e delle persone. Una recente circolare del DAP stabilisce che i detenuti di media sicurezza vivano più tempo in spazi più ampi, che i loro diritti fondamentali siano garantiti, le iniziative trattamentali incentivate e così pure i rapporti con il mondo esterno. Le misure alternative alla detenzione devono diventare la prosecuzione naturale di quanto avviene dentro. Corsi scolastici, formazione professionale, attività lavorative, culturali, ricreative, sportive e, dove è possibile, in ogni regione un carcere o una sezione totalmente aperti per ospitare chi è a 18 mesi dalla libertà. Il tutto sancito da un patto con i detenuti disposti ad accettare questa pena e questa responsabilità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Donatella Stasio «Più fantasia nelle pene aiuta la sicurezza collettiva» dal Sole 24 Ore di domenica 15 luglio.